Sai, veniva sgomberata. Ricordo le parole dei compagni in barricata. Racconti indelebili nell'etere pirata. La polizia è schierata, la rabbia è colorata. 85 le denunce, gente per la strada. La radio che amplifica la lotta. L'unica frequenza libera testata. Questa è la radio, libera nell'etere. Dal 77 sì, io ci posso vedere. Radio Onda Rossa con i denti la difendo. Radio Onda Rossa con i dischi la sostengo. 87.9 la frequenza. Metti la memoria come presa di coscienza. 87.9 in FM. Contro la brutalità una voce si ribella. La frequenza antifascista, la frequenza antisessista. Contro il razzismo, contro carcere e sionismo. Tante sono le storie come i corpi nella danza. Tante le battaglie contro Radio Vaticanza. Frequenza occupata, frequenza conquistata. Essi molto media negli studio per la strada. Usa il tuo microfono come un'intifada. Radio Onda Rossa, la rivolta è cominciata. I telefoni sono isolati, okay. Speriamo che le comunicazioni comunque continuino a funzionare. Ecco, chiamiamo l'ANSA. È dentro al cortile. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Per la scena cilena stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta. Non so se lo sentite. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap. Ragazzi, sta per essere sgomberata. Manteniamo la calma. Tutti e mani alzate. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale. Eccoli, e sono questa entrati, polizia fascista sono che è entrata poliziotti nella radio. Sede di una radio. Questo è uno strumento, questa è comunicazione. Questa è la mia strada, questa è liberazione. Media sole voci dei compagni dalla piazza. Con rabbia e con amore, lotta chi è la mia. Radio indipendente, radio autogestita. Come chi sul sangue radio esprimo la mia vita. Non spreco mai parole, sai che sappiano parlare. Quello che io voglio è una sommossa popolare. Questa è la mia radio, libera nell'etere. Dal 77 sì, io ci posso vedere. Radio Onda Rossa con i denti la difendo. Radio Onda Rossa con i rischi la sostengo. 87.9 la frequenza. Mettila in memoria come presa di coscienza. 87.9 in FM. Contro la brutalità una voce si ribella. Radio Torre per Radio Onda Rossa.